Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. I 9 cani della muta si raccolsero e cercarono riparo nella foresta. Per quanto non più inseguiti, si trovavano in condizioni pietose. Nessuno di loro era ferito in meno di 4 o 5 punti, mentre alcuni erano stati colpiti in modo piuttosto grave. Dub aveva una zampa posteriore assai malconcia. Dolly, l'ultimo eschimese aggiunto alla muta da Ia, aveva un brutto strappo alla gola. Joe aveva perso un occhio e il bonario Billy, con un orecchio a brandelli, pianse e uggiolò tutta la notte. All'alba essi tornarono, barcollando verso l'accampamento, con cautela, e trovarono che i predoni se n'erano andati e i 2 uomini erano di pessimo umore. Una buona metà delle provviste era andata perduta. I cani eschimesi avevano roso le cinghie della slitta e persino i teloni. Niente che fosse vagamente commestibile, in effetti, era sfuggito loro. Avevano divorato un paio di mocassini di daino di Perrault, pezzi di tirelle di cuoio e anche mezzo metro della frusta di François. Quest'ultimo si riscosse dall'avvilita contemplazione di tanto disastro per osservare i suoi cani feriti. Amici miei, disse sommessamente, può darsi che tutti quei morsi vi fanno diventare idrofobi. Il corriere scosse la testa perplesso. Con 400 miglia di pista ancora da compiere per arrivare a Dawson, un'esplosione di idrofobia tra i cani sarebbe stata la rovina. Dopo 2 ore di sforzi e imprecazioni, i finimenti furono in ordine e la muta dei cani, irrigidita dalle ferite, era in cammino e si trascinava faticosamente attraverso la parte più dura fin qui incontrata della pista e anche la più dura in assoluto del resto prima di arrivare a Dawson. Il 30 Mile River era senza ghiacci. Le sue acque impetuose sfidavano il gelo e solo nei punti di risucchio delle insenature il ghiaccio resisteva. 6 giorni di fatiche sfibranti furono necessari per coprire quelle terribili 30 miglia. E furono davvero 30 miglia terribili, giacché ogni passo era compiuto a rischio della vita, sia dagli uomini che dai cani. Procedendo in avanti scoperta per una dozzina di volte, Perrault sprofondò nell'attraversare i punti di ghiaccio e si salvò solo grazie alla lunga pertica che portava, tenendola in modo tale che cadesse trasversalmente sopra il buco aperto dal suo corpo. Ma il freddo era particolarmente intenso. Il termometro registrava 50 gradi sotto zero e ogni volta che cadeva in acqua Perrault era costretto ad accendere un fuoco per asciugarsi i panni se voleva sopravvivere. Niente lo scoraggiava però. L'avevano scelto come corriere governativo appunto perché niente lo scoraggiava. Affrontava ogni genere di rischi, esponendo risolutamente al gelo la sua piccola faccia raggrinzita e lottando dalle prime luci dell'alba fino a notte. Costeggiava le rive minacciose sui bordi del ghiaccio, che si piegavano e scricchiolavano sotto i suoi piedi e sui quali essi non osavano fermarsi. Una volta la slitta sprofondò assieme a Dave e Book, i quali erano mezzi congelati e quasi annegati quando furono tratti in salvo, e fu necessario il solito fuoco perché potessero sopravvivere. Erano ricoperti da una solida crosta di ghiaccio dalla testa ai piedi e i 2 uomini li fecero correre attorno al fuoco affinché sudassero e si sgelassero, e tanto vicino al fuoco che ne ebbero il pelo bruciacchiato. Fu Spitz che un'altra volta sprofondò, trascinando con sé tutta la muta fino a Book, il quale però si gettò all'indietro con tutte le sue forze, mentre le zampe anteriori gli scivolavano sul ciglio e il ghiaccio cedeva e scricchiolava tutt'attorno. Ma dietro di lui c'era Dave, che ugualmente faceva forza all'indietro, e oltre la slitta c'era François, che tirò fino a farsi scricchiolare i tendini. Un'altra volta il bordo ghiacciato si spezzò davanti e dietro a loro e non c'era via di uscita, tranne su per una scarpata. Perrault miracolosamente la scalò, mentre François pregava perché il miracolo avvenisse. Allora, con ogni correggia e ogni cinghia della slitta, usando fino agli ultimi pezzi di bardatura, intrecciandoli in una lunga fune, issarono i cani uno a uno in cima alla scarpata. Per ultimo salì François, dopo la slitta e dopo il carico. Iniziò quindi la ricerca di un punto da cui scendere. La discesa, finalmente, fu compiuta con l'aiuto di una fune, e la notte li sorprese di nuovo sul fiume, dopo aver percorso in tutta la giornata un quarto di miglio. Quando giunsero all'Uta Lingua e al Ghiaccio Buono, Buck era esausto e gli altri cani nelle stesse condizioni. Ma per Roper riguadagnare il tempo perduto, li faceva correre dall'alba fino a tarda notte. Il primo giorno coprirono 39 miglia fino al Big Salmon, il giorno dopo altre 35 miglia fino al Little Salmon e il terzo giorno 40 miglia che li portarono molto innanzi verso i Five Fingers. I piedi di Buck non erano duri e compatti come quelli dei cani eschimesi. I suoi si erano ammorbiditi nel corso di svariate generazioni, a partire dal giorno in cui l'ultimo suo antenato selvaggio era stato domato da un abitatore delle caverne o delle palafitte. Dunque, per tutto il giorno, Buck zoppicava penosamente. E quando piantavano il campo, si lasciava cadere a terra come morto. Per quanto sempre affamato, non aveva volontà di muoversi per ricevere la sua razione, che François era quindi costretto a portargli. Ogni sera, dopo cena, il conducente gli frizionava i piedi per mezz'ora e sacrificò persino la parte anteriore dei propri mocassini per farne 4 mocassini per Buck. Questo fu un gran sollievo, e Buck costrinse la faccia raggrinzita di Perrault a contorcersi l'unghigna un bel mattino. François s'era dimenticato di mettergli i mocassini, ed egli, disteso sulla schiena, agitava nell'aria le 4 zampe, rifiutando di muoversi senza le sue calzature. In seguito, sulla pista, i piedi gli si indurirono e quelle logore calzature vennero abbandonate. Una mattina, al momento di bardare i cani, Dolly, che fin qui mai s'era fatta notare in alcun modo, improvvisamente impazzì. Annunciò la propria condizione con un lungo ululato da lupo, che spezzava il cuore e che fece rizzare il pelo a tutti i cani terrorizzati. Quindi si lanciò dritta su Buck. Egli non aveva mai visto un cane impazzire, né aveva alcun motivo per temere l'idrofobia. Pure sentì qualcosa di orribile e fuggì preso dal panico. Filò via dritto, con Dolly a un passo dietro di lui, ansimante e schiumante. E non riusciva Dolly a guadagnar terreno, tale era il terrore di Buck, né riusciva Buck a distaccarla, tale era la pazzia di Dolly. Egli si buttò attraverso la punta boscosa dell'isola. Arrivò di volata all'estremità inferiore. Attraversò un canale su ghiacci scabrosi fino a un'altra isola. Raggiunse una terza isola. Girò verso il braccio maggiore del fiume e nella disperazione si diede ad attraversarlo. Per tutto questo tempo non si volse a guardare, ma sentiva ringhiare ad un passo da sé. François lo richiamò da un quarto di miglio ed egli ritornò indietro ansimando penosamente e riponendo ormai in François ogni residua speranza, sempre con l'altra ad un passo. Il conducente teneva pronta un'ascia tra le mani e quando Buck gli strecciò davanti s'abbatté l'ascia sulla testa impazzita di Dolly. Finendo contro la slitta esausto, Buck barcollava rantolando, senza fiato e senza forze. Ed era il momento buono per Spitz. Questi si lanciò su di lui per due volte, dilaniandogli le carni sino all'osso. Ma qui intervenne la frusta di François, e Buck ebbe la soddisfazione di veder Spitz ricevere la peggior serie di frustate mai somministrata a qualcuno della muta. «Un diavolo quel Spitz!» disse Perrault. «Un giorno o l'altro mi ammazza Buck!» «Quel Buck due diavoli!» ribatté François. «Tutte le volte lo guardo! Sono sicuro io, eh? Vi dico, uno di questi giorni lui diventa impazzito e mastica Spitz e lo sputa sulla neve. Lo so di sicuro io.» Da allora, tra i due cani fu guerra. Spitz, cane di testa e capo riconosciuto della muta, sentiva la sua supremazia insidiata da quello strano cane proveniente dal sud. E per lui Buck era strano davvero, poiché tra i tanti cani del sud che aveva conosciuto, nessuno aveva dato buone prove di sé, né in campo aperto né sulla pista. Erano tutti troppo delicati, morivano per gli sforzi, il freddo, la fame. Buck era un'eccezione. Era l'unico che resistesse in buona salute, eguagliando i cani eschimesi in forza, in ferocia e in astuzia. Era dunque un cane dominatore. E ciò che lo rendeva pericoloso era il fatto che il bastone dell'uomo con la maglia rossa aveva tolto ogni cieco slancio di coraggio, ogni sventatezza al suo desiderio di imporsi. Prevaleva in lui l'astuzia. Egli poteva temporeggiare con una pazienza che era né più né meno la grande pazienza primitiva. Che un tale scontro per il predominio avvenisse era inevitabile. Buck lo voleva. Lo voleva perché era nella sua natura, perché era stato preso da quell'indefinibile e inesplicabile ardore per il lavoro di traino sulla pista. Quell'ardore che tiene i cani legati al lavoro fino all'ultimo spasimo, che li induce a morir felici sotto i finimenti, che spezza loro il cuore quando ve ne sono esclusi. Era quello l'ardore di Dave, come cane di coda, e di Sol Lex quando tirava con tutte le forze. Era l'ardore che li afferrava appena levavano il campo, trasformandoli da belve scontrose e tetre in creature ambiziose e piene di slancio. Era l'orgoglio che li spronava tutto il giorno e li abbandonava soltanto a notte fonda. Ed era questo l'ardore che sosteneva Spitz. Lo spingeva a castigare i cani della slitta che sbagliavano, che non facevano forza tra le tirelle o che si nascondevano al mattino al momento d'essere bardati. Questo stesso ardore gli faceva temere Buck come possibile cane guida, tanto più che Buck era preso dalla medesima passione. Visibilmente adesso Buck minacciava la supremazia dell'altro cane. Si interponeva tra lui e i fannulloni che Spitz doveva castigare, e lo faceva con intenzione evidente. Una notte vi fu una forte nevicata, e al mattino Pike, il simulatore, non si fece vedere, restando nascosto al sicuro nel suo riparo sotto un piede di neve. Invano François lo chiamò, e invano andò in cerca di lui. Spitz era fuori di sé dalla rabbia. Corse furibondo per tutto il campo, annusando e scavando ovunque, ringhiando in modo così spaventevole che Pike, udendolo dal suo nascondiglio, tremava tutto. Quando infine il lavativo venne scovato e Spitz gli si precipitò addosso per castigarlo, Buck si lanciò tra i due con altrettanta foga, e la sua manovra risultò tanto inattesa e così abilmente condotta che Spitz venne respinto e rovesciato. Se fino a quel momento Pike era rimasto a tremare come un coniglio, ora di fronte a quell'aperta rivolta ritrovò il proprio coraggio, balzando sul suo capo abbattuto. E anche Buck, dimentico ormai d'ogni lealtà, si lanciava allora su Spitz. Se non che François, sogghignando per l'incidente, ma pur senza per questo rinunciare ad amministrare la giustizia, fece cadere la sferza su Buck con tutte le sue forze. Neanche ciò valse ad allontanare Buck dal suo rivale atterrato, e dunque venne messo all'opera il manico della frusta, e la sferza s'abbatté molte volte ancora su di lui, mentre Spitz impartiva una dura lezione al più volte colpevole Pike. Nei giorni che seguirono, mentre Dawson si faceva sempre più prossima, Buck continuava a intromettersi tra Spitz e i cani colpevoli, ma lo faceva con accortezza, quando François non era nei paraggi. E un tetro pomeriggio essi giunsero a Dawson senza che il grande scontro avesse avuto luogo. Qui v'erano moltissimi uomini e un numero incalcolabile di cani, che Buck trovò tutti dediti al lavoro, come se fosse nell'ordine stabilito delle cose che i cani dovessero lavorare. Tutto il giorno passavano avanti e indietro per la strada provinciale, in lunghe mute, e i loro campanelli continuavano a tintinnare anche di notte. Trasportavano tronchi da costruzione e legna da ardere, su fino alle miniere, svolgendo tutti quei servizi che nella valle di Santa Clara erano riservati ai cavalli. Di tanto in tanto Buck incontrava cani delle terre del sud, ma soprattutto vedeva cani eschimesi, discendenti dai lupi selvaggi. Ed ogni notte, regolarmente, alle 9:30, a mezzanotte e alle 3, da loro si levava un canto notturno, una nenia strana e inquietante, a cui Buck era felice di unirsi. Thank you. sera, dopo il pasto alle foci del Tachina, Dab scovò un coniglio delle nevi, ma non fu abbastanza pronto e se lo fece sfuggire. In un attimo l'intera muta era in subbuglio, ululante. Un centinaio di yard più avanti c'era un campo della polizia del nord-ovest con 50 cani, tutti eschimesi, che si unirono alla caccia. Il coniglio saettò lungo il fiume, deviò per un piccolo affluente di cui risalì il letto ghiacciato e proseguì dritto per quella via. Correva leggero sulla superficie della neve, mentre i cani dovevano aprirsi una strada a forza. Buck guidava il branco, composto da una sessantina di cani, ma curva dopo curva non riusciva a guadagnare terreno. Correva ventre a terra, guaendo nel fervore, con lo splendido corpo che saettava in avanti, balzo dopo balzo, nel debol chiarore della luna, e balzo dopo balzo, come un pallido fantasma di ghiaccio, saettava innanzi il coniglio delle nevi. Tutto quel sommovimento d'antichi istinti, che in certi periodi spinge gli uomini fuori dalle città rumorose, verso foreste e pianure, per uccidere con l'aiuto di palle di piombo azionate da una forza chimica, questa ebbrezza del sangue, gioia d'uccidere, tutto ciò era in Buck. Scatenato, alla testa del branco, egli incalzava quella cosa selvaggia, quella carne viva, per ucciderla coi propri denti e immergere fino agli occhi il suo muso nel sangue caldo. V'è un'estasi che segna il culmine della vita, oltre il quale la vita non può innalzarsi. E tale è il paradosso del vivere. Quell'estasi giunge quando più si è vivi, ma giunge come oblio completo dell'esser vivi. Quest'estasi, questo oblio della vita, prende l'artista rapito fuor di sé da una vampata di fuoco, prende il soldato che sul campo di battaglia, nella follia guerresca, rifiuta ogni tregua, e prese Buck, mentre guidava il branco, facendo risuonare l'antico grido dei lupi, all'inseguimento di quel cibo vivente che fuggiva, lesto, innanzi a lui nel chiarore lunare. Ma intanto, freddo calcolatore, persin nei suoi slanci più estremi, Spitz abbandonava il branco e tagliava attraverso uno stretto braccio di terra intorno a cui il ruscello girava in una lunga ansa. E Buck, che non se n'era avvenuto, mentre eseguiva la curva con quel fantasma di ghiaccio d'un coniglio che gli finava dinanzi, vide un altro e più grande fantasma di ghiaccio balzare dalla sovrastante sponda, proprio davanti al coniglio. Era Spitz. Non fece in tempo il coniglio a volgersi altrove, e mentre i bianchi denti gli spezzavano già le reni, emise uno strillo tanto acuto che si sarebbe detto d'un grido d'uomo colpito a morte. Non appena risuonò quel grido, il grido della vita che precipita dalla sua vetta nella morsa della morte, alle spalle di Buck fece eco l'intero branco di lupi, con infernale coro di giubilo. Buck non gridò, non fermò la sua corsa, ma dritto volò su Spitz, spalla contro spalla, e con tale impeto che mancò la sua gola. Quindi i due rotolarono più volte l'un sull'altro, sollevando un polverone di neve. Si rimise in piedi Spitz, quasi non fosse mai caduto, e dilaniò la spalla di Buck subito via balzando. In un lampo Buck comprese. Era giunto il momento, ed era l'ultimo sangue. Gli pareva di rammentare tutto: i bianchi boschi, la terra, il chiaror della luna e il brivido della battaglia. Sul biancore e sul silenzio incombeva una calma spettrale. Non c'era il minimo alito di vento, niente si muoveva, non tremava foglia, e il fiato visibile dei cani saliva lentamente indugiando nell'aria. Avevano sbranato in fretta il coniglio delle nevi, quei cani che erano lupi non del tutto addomesticati. Ora raccolti in cerchio, attendevano anch'essi in silenzio, con occhi che brillavano e il fiato che fluiva lentamente nell'aria. Non era niente di nuovo o di strano per Buck, tale antichissima scena. Era come se fosse stato sempre così, la consueta vicenda delle cose.